giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. 24 gennaio 1979, le 6:30. Guido Rossa è un operaio dell'Italsider di Genova, sindacalista e militante del PC. Si sta recando presto al lavoro, turno A. Porta in quel momento tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850, posteggiata in via Fracchia, e via Ischia, dove si affaccia il portone di casa sua. Rossa si volta indietro, ma tutto sembra tranquillo. La normalità, invece, è solo apparente. I terroristi Riccardo Dura e Vincenzo Guagliardo lo raggiungono alle spalle. Attendono che apra la portiera dell'auto e poi gli sparano numerosi colpi di pistola. Senza esitazione, senza pietà. Non volevamo ucciderlo, racconterà anni dopo uno dei pentiti delle BR. La direzione nazionale strategica era contraria. Guido Rossa doveva essere gambizzato. È stata la colonna genovese, dice il pentito, a decidere all'ultimo momento per l'uccisione. Alla fine Guido Rossa lo troveranno disteso, con le gambe sul sedile, la testa appoggiata al volante. E una telefonata al secolo XIX rivendica l'assassinio del sindacalista da parte delle Brigate Rosse. Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Genova, membro del consiglio di fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7, a poche decine di metri dalla propria abitazione, in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregino. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsider, è stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi i lavoratori hanno sospeso ogni attività. L'omicidio di Guido Rossa matura in fabbrica. L'operaio scorge il suo collega Francesco Verardi mentre sta inserendo dietro le macchinette del caffè la risoluzione strategica delle BR. Di quell'organizzazione Verardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica, chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere una denuncia. È la prima volta che accade. La discussione diviene pesante, perfino offensiva nei confronti di Rossa. In molti gli chiedono di lasciare perdere. Ma in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le BR fossero una comune organizzazione dissenziente. E c'è chi addirittura sottovaluta la gravità di comportamenti diretti a fare proseliti nel terrorismo. Pierluigi Baglioni, prima amico di Guido Rossa, poi antagonista per ragioni morali e infine narratore del coraggio di un uomo, intervistato da Gigi Donelli. Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui li tirava fuori di lì e li seminava, e tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse: beh, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, un compagno conosciuto che là, mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, gli si disse: poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica. La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale. L'operaio dell'Italsider è conscio del rischio e lo riferisce prima di morire all'amico Ribetti. Va a finire che quegli altri mi fanno fuori. Arita Corsini, sua amica, aggiunge poco tempo dopo: sta per succedere qualcosa, ma non dite nulla a mia moglie. Nel giorno dei funerali di Guido Rossa, Genova si ferma. 250.000 persone in piazza sotto un cielo plumbeo. Davanti alla bara sfilano i colleghi dell'Italsider. Ci sono voluti 10 anni dai tempi di Piazza Fontana per convincere quelli che sembravano più scettici. Noi sono 10 anni che diciamo da dove viene la versione. Sono 10 anni che subiamo. Adesso credo che anche quelli che fino in fondo ci hanno attaccato, anche quelli che da certi organismi di stampa erano piuttosto scettici, perché c'era quella tinta di rosso, quell'infamia, perché le Brigate Rosse noi li ricordiamo durante la Resistenza, per ciò che hanno fatto per liberare il paese. Adesso hanno infangato quel nome. Beh, ancora una volta credo che non ci sarà più dubbio. Credo che tutto il paese ormai sa benissimo da che parte viene questo terrorismo, da chi è finanziato. E credo che questo atto disperato sia proprio la fine. Nonostante l'evidenza, amici e conoscenti di Guido Rossa quel giorno chiameranno le BR Brigate Nere. È toccato a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle Brigate Nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle Brigate Nere, diciamo. Quando lo ha denunciato è diventato per loro un capro espiatorio. Hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Ecco, questa è una dimostrazione che nessuno è con queste Brigate Nere che si dicono rosse. Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette: Guido Rossa è stato lasciato solo. Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa: eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto. E al termine dei funerali i lavoratori tornano a casa con i loro treni. I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo non riuscirà a passare nel nostro paese. Questa perlomeno è una speranza che io voglio esprimere. La denuncia ai carabinieri sarà la sua condanna a morte, ma anche quella delle Brigate Rosse. Mesi dopo Francesco Berardi si suicida in carcere. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, sarà a sua volta ucciso dai carabinieri del Blitz di Via Fracchia, come un macabro rituale, come proprio una saga moderna.